39. L'aria non sapeva ancora di sole quando Esther sentì la coperta scivolare via e una voce che diceva di alzarsi, in fretta, che bisognava andare. Scrollò di dosso la paglia e tentò di fare lo stesso col sonno, ma quello rimase attaccato agli occhi. Era stata una notte difficile. La soffitta dove le avevano ospitate era zeppa di pannocchie ed Esther si era ricordata cosa diceva mamma, di non giocare in granaio perché i serpenti sono ghiotti di mais. Ci fosse stata lei, non avrebbe mai accettato di farla dormire là dentro. Ma lei non c'era più, ed Esther non aveva dormito. Prima di lasciare Oswego, zia Nancy aveva portato lei e le sorelle a deporre un mazzo di fiori sulla tomba. Dovevano andare lontano, raggiungere papà. Le aspettava nel porto in fondo al grande fiume, dove iniziava l'oceano. Perché non fosse venuto a prenderle, Esther non riusciva a capirlo. Aveva mandato zio Daniel, con dei barcaioli indiani, e l'uomo che chiamavano il Gran Diavolo. Stretti sulle canoe di corteccia, avevano attraversato il lago e imboccato il fiume. Nella grande cucina, Judith e Sara facevano colazione, latte e biscotti. Esther li odiava. Ascoltare quattro bocche mentre impastavano quella roba le dava già il volta stomaco. Chiese pane e miele, ma non ce n'era più. Zia Nancy le offrì una galletta spalmata di grasso. «Mangia qualcosa, oggi bisogna camminare». Esther non fece domande, non era più una bambina. Nei viaggi in barca si andava anche a piedi, questo ormai lo sapeva. Poco importava se il pericolo da evitare era una rapida, una secca o altro ancora. Aprì la porta e respirò aria fredda. Un brontolio liquido tradiva la presenza del fiume, nascosto da una coltre di alberi e bruma. Esther gettò la galletta ai maiali e si guardò intorno. Sull'aia il diavolo parlava in francese al padrone di casa, un signore col codino che puzzava d'aglio e tabacco. Gli indiani erano chinati sui resti del fuoco e mangiavano strisce di carne abbrustolita. Zio Daniel e la domestica uscirono dalla fattoria in assoluto silenzio. Sulla schiena portavano Judith e una cugina, dentro le imbracature indiane che servono a trasportare i bambini. Si accodarono al barcaiolo che faceva da guida, mentre gli altri caricavano in spalla le canoe per chiudere la fila insieme al diavolo. «Adieu! Bon courage!» li salutò il francese della soglia. La strada non era di quelle larghe, per carri a cavalli. Si avanzava tra i rovi, in mezzo all'erba e alle zanzare. I piedi affondavano nel fango e non venivano più su. Sara cominciò a lamentarsi dopo mezz'ora di marcia. Sembrava che un gatto le fosse saltato in faccia per affilare le unghie. Piangeva, le facevano male i piedi, aveva sete. Mentre la domestica le passava la borraccia, il diavolo si avvicinò e le offrì di caricarla su una canoa. Esther si aspettava che sua sorella iniziasse a urlare. Una sera, per farle paura, le aveva raccontato che quell'indiano era davvero Satana ed era venuto per portarle all'inferno. Invece lei tirò su col naso e offrì le braccia al diavolo, che la issò e la depose sulla barca. Dopo un pranzo rapido e immangiabile, carne secca e miele, anche la figlia maggiore di zia Nancy si arrese e finì a sedere nell'altra canoa. Esther riprese la marcia, fiera che nessuno la dovesse trasportare come le altre bambine. Non durò molto. Presto la stanchezza incrinò l'orgoglio. Non toccava cibo dalla sera prima. Aveva i vestiti strappati, la pelle bruciava sotto i graffi, grappoli di vesciche gonfiavano i piedi. Le gambe non rispondevano più, erano tronchi da trascinare nel bosco e si incagliavano a ogni inciampo. Esther si lasciò cadere. La testa girava. Vide avvicinarsi il diavolo e distinto si abbracciò le ginocchia, come per ripararsi da un vento gelido. D'un tratto si sentì estranea alla scena. Osservava se stessa con la visuale di un uccello appollaiato su un ramo. Si guardò allungare una mano, afferrare la borraccia che le veniva portata, portarla alle labbra. Sciroppo d'acero e acqua, anche meglio del miele. Mentre beveva sentì un braccio scivolare dietro la schiena, un altro sotto le cosce. In un attimo si ritrovò sulle sue spalle, con la gola stretta e i pensieri sottosopra. Non l'aveva sollevata così, la piccola Sara. L'aveva presa sotto le braccia, come si fa con una bambina che vuole giocare. Esther non era più una bambina, ma spesso i grandi non ci facevano caso. Il diavolo lo aveva capito. Il fuoco sonnecchiava davanti al riparo. Il diavolo stava seduto, per la prima volta da quando erano partiti, a tirare boccate da una pipa sottile. Aveva montato il ricovero insieme ai barcaioli con tre bastoni e tela incerata. Aveva arrostito trote e scoiattoli ed Esther si era stupita che fossero buoni da mangiare. Zia Nancy e la domestica avevano messo a letto le bambine e si erano buttate a dormire, troppo sfinite per dire buonanotte. Zio Daniel russava seduto, il mento sul petto. Nel suo giaciglio di coperte, Esther sentiva la stanchezza pesare sulle tempie e non riusciva a prendere sonno. Ripensò alla giornata, ai graffi e ai piedi gonfi, al sorriso delle bambine sopra le canoe, all'abbraccio del diavolo. Un singhiozzare sommesso si aggiunse ai richiami di ghire e civette. Rintanata nelle coperte, Judith piangeva. Esther si voltò verso zia Nancy per controllare che avesse sentito, ma le donne russavano, sprofondate in un mondo distante. Fece per alzarsi, ma vide il diavolo venire verso di loro e preferì restare giù, fingere di dormire. Dietro le ciglia socchiuse, lo guardò inginocchiarsi e passare una mano sui capelli di sua sorella. Lo sentì sussurrare qualcosa mentre i singhiozzi si facevano più radi. Doveva essere una canzone per dormire, di quelle che conosceva la mamma, e anche Esther avrebbe voluto ascoltare. La voce del diavolo si spense, fece ancora una carezza, poi raccolse la pipa e tornò verso il fuoco. Esther non fu sicura di vedere bene, le parve di intuire un gesto, le dita di una mano che sfioravano l'occhio. Si sentì confusa. Che il diavolo fosse forte, lo aveva sempre saputo. Poteva anche essere bello e gentile, per lusingare gli uomini. Ma che potesse piangere, questo davvero non lo aveva mai sentito.